scusami, ritirando tutto qua che ho fatto un po' di festa. Festa è fatta, che festa è fatta? Un po' di festa del compleanno, va. Oggi il tuo compleanno, auguri. Ieri era, ma ho fatto oggi. Era, roba buona c'era da mangiare. Siamo invitati, ci avevo. Ho fatto la torta, un pochetto di roba così. E passi domani, ci mangiamo, ci beviamo una birra, qualcosa. No, domani sono impegnato, tanto, te l'ho detto. Cappa. Cazzo, eravamo un po'. Te l'ho detto l'altro giorno, domani cosa devo fare, no? Ah, sì, sì. Cappa, ce l'hanno preso qui quel monopattino. Beh, in chi vi rilassa? Secondo me aveva un filo staccato, perché aveva tutto, gli interruttori, tutto c'aveva. Qualche filo staccato aveva. Uno che si muore di impegno, se lo smonta, lo controlla, era giusto. No, non mi piace il monopattino. Stamma mi tronchiare un gozzo. Vabbè, te lo vendevi. Cavaga, ma queste sono belle dinamiche, si cose. Già lo so che cosa è, anche non te l'hai pigliato tu. No, io, tu, cosa me ne faccio? Sono una persona grande, tu sei un ragazzo, cosa me ne faccio io al monopattino? Altro camirussi. Quindi io non lo posso usare. Cosa, Cla? Quindi io non lo posso usare perché sono una persona grande, io ce l'ho. Bravo, usalo, io non sto dicendo niente, sto parlando di me, non di te. Tu hai detto una persona grande, non lo puoi usare, perché non lo puoi usare? Aiutano a muoverci oggi in Piazza Italia, al monopattino. Se vi sei buono, sì, io non vi la verità, non ci sono capace. La bicicletta elettrica te la posso trodiare, te la posso andare a mille, ma non ci sono capace io di quella roba lì. E cosa vi vuoi? Tu vi ho pulsato, premi il pulsante e parte. Cabaterra. È facilissimo, anche è facilissimo, battere male in equilibrio è un bel divertente, io uso quando vado al centro. Non sta giovanissimo, lo passi. Già lo uso, sì, costa un sacco di soldi, l'ho preso con incentivo prima che scadeva, era praticamente 800 euro, l'ho pagato 400. Vabbè. Io ce n'è uno vicino a casa che va su quello a due ruote, quella pedana a due ruote, che ti devi tenere in equilibrio, che ti sporgi davanti, va avanti, ti sporgi indietro e va indietro. Quella lì è un po' pericolosa, perché se si sbilancia poco a poco con un fosso, si punta da mazzo. Vedi già, quello è pericolosissimo, non pericoloso. Quindi ci sono la Ginara. Quest'estate c'era la Ginara, io l'ho preso così per giocare e sono caduto a culo a terra, ma ormai non ho sbattuto la testa. No, quello lì bisogna, anche se l'ho fermato un tipo che ce l'aveva per chiedergli se era difficoltà, se mai, no, una volta che ci prendi la mano, guarda, se ti sporgi davanti va avanti, se ti metti indietro va indietro, se ti metti di lato e gira, e tutte e due le parti, basta che ti metti di lato e gira pure. Vedi che non è così, io ci ho provato, te l'ho detto, se ci sono la Ginara, noleggio. L'abbiamo preso io e mio fratello è un po' più pratico, capito? È un po' più ginnico che me. E io mi gioco molto, ho dato un colpo in avanti, ha dato un colpo a partire e mi sa tutta a terra. Ma come si è parlato di mari? Cazzo, c'era gente di figura di merda, c'è colpo a culo a terra, ragazzi. Ci sono rimasto tutto il giorno con un mal di schiena luciante perché avevo saccato un momento un macug, è pericoloso quello, mentre noi ce l'hanno fatti, no, e quando li osservavamo da ragazzini, lo stesso cosa, metti due piedi, uno dietro l'altro, stai in equilibrio e vai, tranquillo. Il freno dovrebbe averlo dove c'ha il parafango di dietro. Esatto, quindi sei già portata di freno, insomma, devi stare attento. Io mi sono comprato anche quel caschetto piccolino, tipo la ciclista. Ho capito, quelli che hanno solo le strisce. No, solo le strisce, è tipo la ciclista. Perché mi hanno fermato i vigili urbani e mi hanno detto, guardi, ci vuole il caschetto. Ho 60 anni, mi pongono il casco. No, un caschetto di protezione, vero. Capito? Poi ho preso un po' così, confidente, visto che va bene, domani me lo compro, tanto vado a comprare da Roma. E gli ho chiesto appunto com'era la situazione, intanto vi saluto tutti e due, scusate, mi stavo ascoltando. Ho chiesto com'era la situazione, ho detto, guardi, non ci passerà molto, ma a tutti quelli che sono omologati come questo, perché il mio è omologato, tutto mi ha detto sicuramente ci sarà una mini assicurazione, una cosa minima, ma ci sarà una mini assicurazione, perché dice stanno succedendo troppi incidenti. Sì, l'hanno detto anche al televisore, Claudio, è vero, Claudio, è vero. Faranno anche assicurazione per quello, e allora non conviene più, ma dice che prima si potevano portare senza casco e senza assicurazione, adesso ci ammazza. Già, perché è un casino, cioè, infatti passano sopra il marciapiede, io cammino nella strada, stando attento, normale, ma camminano sopra il marciapiede, in mezzo alla gente, venivano in lui via Roma in due, seduti in due ragazzini, leggeri, dai. In due erano, uno attaccato all'altro, in due, sopra il marciapiede, cioè non va bene così, infatti i miei urbani stanno facendo belle contraddizioni, perché non si può, non può passare con quello nella pista ciclabile, solo le biciclette possono passare, capito? Auguri Anto, ho sentito che era il tuo compleanno ieri, auguri, che ha 100 anni. A te se hai smesso di essere assentato. Aspetta con questo PMR, ragazzi, che sta entrando, come farlo è? Grazie, grazie. E mi stavo ritirando i capi che ho fatto un po' di festa. Hai fatto bene tu, hai fatto bene, bisogna fare sempre invece. Proprio l'impianto attaccato. Non va bene, giusto per passare un po' di tempo, già va bene. L'altro giorno ho fatto la festa di Ghisù, Auli, come ti cazzo si chiama? Halloween, un amico nostro di Zaulin. Allora, ti fate passare due ore. Allora. Aulin. Ehi, la terra di te. Se vengono tutti i bizzini, io se vengono. Prende la vista di Aulin. Tuia. E vabbè, non sono parole italiane, tanto quanto quello. Noi siamo italiani, solo che nel nostro vocabolario stanno mettendo molte parole inglesi, non so se te ne sei accorto, weekend, shopping, ghiaccio, ghidasso, ce ne sono mille di parole inglesi, qua se in Inghilterra mettono parole italiane nel loro vocabolario. Troppo comodo. Vedi, manco ti credo se non sai parlare inglese. Vengono qua che ti tocca fare gli scemi. Come, qui, ah sì, lì, là, blu. Non li ascolti, lì. Ti dici subito, do you speak English? No, do you don't discuss the boss? Comunque, monopatti, lo stavo dicendo. Ieri, vicino al cassonetto della Mondezza, ce n'era uno nuovo, con le luci accese ancora. Lampeggiavano le luci di dietro. E c'aveva delle buste sopra, l'ho aperto, era tutto nuovo, non gli mancava nulla, c'aveva tutti gli interruttori. Sicuramente gli si è staccato qualche filo, perché ho provato l'interruttore avanti e non andava, faceva zzz, però non andava, probabilmente qualche filo che si è staccato, che si era ricutto, non c'era manco caricabatterie, sicuramente il caricabatterie si era tenuto, era nuovo, ti sto dicendo, sembrava uscito dal negozio. Fai uno più uno, caricabatterie non c'era, l'hanno abbandonato al cassetto della Mondetta, sicuramente rubato, perché stanno rubando un bel. Mi stanno rubando un bel, capito? Perché non è che ti porti il caricabatteria a presso, no? Io lo carico e mi dura anche 24 ore, non c'è nessun problema. Quindi sicuramente l'hanno rubato e quando si è carregato l'hanno lasciato lì nel cassetto della Mondezza. Ma era coperto con delle buste nere del manubrio, ce l'aveva e proprio dove metti i piedi, c'erano delle buste nere, e poi c'erano delle gabbie, no, sicuramente era gente che se ne è sbarazzata, c'erano delle gabbie e non le ho toccate perché erano vecchie, perché se no me le avrei prese, la grandezza c'era, era un bel bella, una era un bel grande, però aveva gli sportelli rotti, insomma era busta male. Vabbè, allora sempre mi devono toccare queste cose, non so mai per le ponte digitali, capito già, stai attento quando vedi queste cose così. L'altro giorno c'era un televisore vicino a casa, bello, un 42 pollici della Panasonic, ho detto mi stavo attentando perché era nuovo, però gli ho detto ma se c'è qualche furto di qualche appartamento, che ne tutti noghi, ho detto no. lasciato perdere, l'ho lasciato perdere perché bisogna stare attenti, capito? Vai a tu. Esatto. Cazzo di custodia. Sarà stato imbarrato, sarà stato, mi maestrano. E quei televisori intanto si guastano, magari sono pinovi. Riprendo un attimino che ci sto mettendo, devo mettere le casse e gli stativi dentro, che li smonto. Il mio non era partito, se non è partito il televisore mio. Allora Calucca mi ha cambiato i led, non si trovava, non mi ha messo di led di un monitor vecchio che c'aveva, e anda troppo bene. C'è il mio di mia suocera io qua in stanza, attaccato al muro, lo stesso non accendeva. Buttando, poi ho detto cazzo non lo conservo, ma salva perché non ricordo le mie suoceri, e un IVA schermo piatto, i primi che sono usciti, ma è una canonata. Non accendevo la Calucca, mi ha cambiato il transistor di alimentazione, funzionante al 100%, è un mago, è un magone, ma è anche un mago Lucca. Se a Lucca Pipe ne hanno regalato uno, che accendeva tutto con telecomando, tutto, però non ci vedeva, capito? Era pazzino, e Luca ha detto un po' dava il controllo, l'ha controllato e si è accorto che praticamente il decoder interno è partito, gli ha messo il decoder esterno un Samsung 46 pollici da paura, c'ha questi colori allucinanti. Lo so, e poi il decoder adesso va cambiato perché fra poco entrerà il nuovo sistema. Allora io col televisore grande della sala sono a posto, vedo tutto, però con quello della cucina no, dovrei mettere il decoder. Ma tu li hai buttati i decoder che ci avevi prima? No, ce li ho. No, basta mettere quello già si vede. No, che è particolare il decoder che c'è adesso, e praticamente adesso si vede, però dovrà cambiare sistema. Ah, quello in coso, ho capito. No, vabbè, io ho Smart TV. Smart TV nel salone, in camera da letto, solo qua, anche in camera di mia figlia lo stesso. Tre Smart TV e quindi non ho problemi perché sono in 4K, 2K, tutto, insomma, tutto regolare per la nuova accensione. Mentre invece qua in stanza dovrò comprare il decoder, ma lo compro, ma frega niente, non ne cambio televisione. Canonata, questo va bene. Ma poi mi sa che ci sono anche gli incentivi come c'era l'altra volta. Ci sono 50 euro di incentivo. E il decoder costa? Costerà sui 100, 120 euro, una cosa del genere. Dipende da quello che compri. Io ad esempio quello che comprerò mi serve per la scheda, Sky, capito? Quindi deve avere lo sportellino con la scheda come quello che ho, ne ho due, però non vado più bene quelli lì, capito? Quindi costerà un po' di più, però ti danno non so se il 50%. Io quello che c'è è Motorola e si vede un bel bene, non dà problemi. Il telecomando mi stava rompendo le scatole perché c'ha di quelle batterie a cassetto, di quelle piatte, no? Che si inseriscono tipo cassetto, e a volte tocca, a volte non tocca, non funziona, bisogna aprirlo, c'è il ferretto dentro, bisogna stringerlo, ogni volta è un casino. Lo so già, lo so, i telecomandi quando sono già vecchi è un casino. Vabbè, comunque, aspetteremo adesso a vedere un pochino cosa dite. Io per tre stanze sono a posto, vabbè, salone che dove stiamo di più, per camera da letto, quello del salone è 52, quello delle camere da letto sono tutte e due da 32, perché sennò sono troppo ingombranti. E questo è un 38 Miva che però sarò costretto a mettere un decoder, vabbè, vediamo quando sarà, dai. Sì, ma infatti, adesso il televisore funziona bene, io guarda, quello LG che ho in cucina, che mi ha aggiustato Luca, quello l'avevo preso con i punti della ESO, avevo fatto i punti della ESO e me l'avevo preso, ce l'ho sei da gatto, roba minimo che mi piace qui di zanno. E quello che ho io qua in stanza, avrò lo stesso 15, 16, 18 anni, non so, ma è favoloso, si vede bene, un MIFA, anche Vittorio mi aveva detto di non buttarlo perché sono televisori che funzionano molto bene. No, quello diciamo è, gli Smart TV li ho presi l'anno scorso, l'anno scorso, l'ho preso quello del salone, l'ho preso quando sono andato via dal lavoro, ma gli altri due li ho presi l'anno scorso, quindi stiamo avranno 2-3 anni, dai, neanche. Ma va per il regalo ai televisori, sono andato al quadrato, cos'è? LED, quello lì, sì, LED, sono andato a comprare, perché lì c'è del pesce surgelato che è un ben buono, invece lo comprato dall'altra parte e si scioglie. Quello lì rimane bello intero quando lo cucini e sono andato lì a comprarlo. Beh, c'erano i televisori in offerta, 100 euro, ma manni mi, televisori di quelli enormi, 100 euro. Sì, c'erano anche a Cogio, come si chiama? L'altra volta a Portobello che hanno ritirato della merce di un negozio d'alghero che ha chiuso, merce nuova, infatti ho preso, mi sono cambiato il forno, quello a San Nicolo c'era la 60, l'ho preso da 80 litri, il forno esterno, capito, è 50 euro, che vai a comprarlo costa 200 euro tiro. Nuovo, è dentro la scatola, imballato, tutto nuovo, roba così, che comprano a metà prezzo e vendono giusto per guadagnarci qualcosa. E c'erano anche lì dei televisori, però io non me ne voglio nulla. Infatti l'ho propenso a cambiare questo della sala radio, ma ho detto, poi lo faccio qua, finché non funziona, mi tengo questo, quando non funziona più lo conservo, perché a buttare non lo butto, lo porto sui massarda, lo metto da qualche parte, gli sotto il ricordo e me lo prendo nuovo. Ed erano lo stesso 120 euro, ce n'erano da 36 pollici o da 38 e da 42 pollici, o da 32 e da 42. Questi qua era una marca che non ho mai sentito, era una marca bucca, chissà da lì giù, però erano grandi, poi se si vedesse bene non lo so perché erano scartolati. 100 euro comunque, erano belli massicci, sono stati 36 pollici, erano belli grandi. Beh, fatto sta che io dico la cosa, se che funziona io lo lascio, ricopro il decoder e basta, esamina tutti. Però al giorno d'oggi se si sfascia non ti conviene manco aggiustarli, cazzo, con 100 euro devo comprare ginuvo. Stanno tutto abbassando di prezzo in una maniera pazzesca le cose elettroniche. Io mi ricordo che l'Alpine, quello che c'avevo, l'Astra, l'avevo pagato 990.000 lire, me lo ricordo ancora. Adesso un Alpine così. 50x4 ti costa sugli 80 euro. Ah, guarda, io dico una cosa, non comprerò più un televisore di marca, perché cazzo, un Philips 6 mesi di fitta e si è imbarrato subito. Ha giubilato un Akai, vi darà in casa di babbo più di 2-3 anni sempre andente. Ah, va che ci ammazzano. No, le mollande, non cazzo. Altro, i televisori sono buoni, sono gli LG, Sony, se tu compri i televisori, anche Philips, non è che fa i televisori, no? Philips fa altre cose, ma televisori proprio non c'è specializzazione. Se tu compri marche che non vanno bene per il televisore, è normale che ti partano subito, va a dire un po' così. Ha fortuna con i televisori, ha fortuna, c'ho televisori e televisori, poi dipende dall'usura anche. Per lo usi è normale, no? È quasi come un paio di scarpe, più ne usi meno ti durano. No, ha giudito già, che ho comprato un televisore di marca, mi è durato la bacca Santo Ceppano, invece con un televisore di sottomarca, cioè di sottomarca, è sempre funzionante. I migliori sono gli LG, perché gli LG fanno i pezzi per tutti i televisori, per la Sony, per quello, per l'altro. L'LG è la marca base, poi dà i pezzi a tutti quanti, a tutte le marche. Lascia perdere lui. Beh, va bene, le giglia sono buone lo stesso, ma va, io dico una cosa, ne ho avuto anche di marca, uno quello là è andato fottuto, l'unico che è andato più bene di tutti è quel Samsung di babbo, che ce l'ha quasi 10 anni, Ma io qua mio, ho preso un Grete, ce l'ho 4 anni senza funzionente. Ma poi è che perché le marche, oramai la marca non si guarda più, sono tutti misciati, capito? Sono tutti, cioè, i componenti. Alla fine di fatto è tutta una casa, è tutto un miscuglio, capito? E funziona quanto funziona quello là. Oramai non bisogna guardarle certe cose. Luca, tu che sei un esperto, a te la parola. A fortuna Gianni, capito, a fortuna. E poi anche l'usura. Se tu un televisore lo usi normalmente, poi se tu lasci tanta aria accesa, purtroppo i componenti si riscaldano e tutto il resto della TV. È così già. Comunque a fortuna. Guarda, io ho fatto un esempio, no? Anche quello è tubo catodico. Io c'avevo un Mifar, roba di 6-7 anni. E funzionava benissimo, con le cose all'esterno ovviamente, quello che c'era la gomma dietro. E praticamente poi l'ho venduto, ma funzionava benissimo, 7 anni sono tanti, perché non lo usavo molto. Poi a secondo, ripeto, è la fortuna. Ma secondo me i migliori in commercio sono i Samsung. Hanno sempre pezzi di... Sì, i Samsung sono buoni, E tu vieni a vedere il mio, che LG, che colori che c'ha. Io non lo metto in dubbio già, però è a fortuna, capito? Poi ripeto, anche dall'usura. Ma troppo dire, un tecnico, proprio tecnico. Cioè, un Vittorio troppo dire, perché lui è un tecnico specializzato su queste cose. E penso che di marche ne mastica, no? Da LG a Samsung, poi Philips, Telefunken e quant'altro, no? Ma anche gli HD sono buoni. Allora, dei televisori nuovi, quelli a LED, purtroppo quelli lì 2 anni, 10 bugie, un LED si chiuda. Perché sono in parallelo tutti quanti, no? Allora, quello che hai riparato tu che c'ho qua, quel MIFA dei miei soci, cos'è? Quello non è a LED? No, quello è LCD, capito? Quello c'ha le lampade dentro. Cazzo, ma è una cosa allucinante, ma sai che non ne faccio la televisione? Da quando l'hai messo a posto tu non c'è più WhatsApp, no? Io ne ho 3 di Telefunken, Gianni, 3 Telefunken, cioè, tutte e 3 smart TV. Uno da 50 e gli altri sono da 32, o 52, 50 se mi ricordo. Comunque questo non è enorme, è grande. E gli altri sono da 32, delle camere da letto. Più questo mi fa che mi ha riparato. E ti dico che mi hanno consigliato che volevo prendere il Samsung. E invece c'erano quelli che costavano un po' meno e mi ha detto prendi questi, vai tranquillo che il telefono è buono, ce l'ho già 2 o 3 anni, ma mai avuto problemi. E invece io Telefunken, quando ho fatto il testimone, un matrimonio, ho regalato un Telefunken di quelli grandi, ed è partito dopo poco tempo. Bianco per me che io devo uscire un attimino. Anche per me Bianco va a lavorare la gugliuppa, riprendi già. Ma a caso mi ha dato un messaggio su WhatsApp. Ciao Antonio, ci sentiamo dopo. Ma è come ti ha detto Gianni, o come ti ha detto Luca già, il televisore bisogna anche cercare di usarlo in una maniera, capito? No, sono buoni. A me l'ha detto anche Galvino, il tecnico, anche il Claudio, mi ha detto che sono buoni. Poi già, cambio di faccia, io ho tutte e 3 smart TV, più questo che non è smart TV. Va bene, cosa ci hai mandato su WhatsApp? Comunque guarda, ti dico un'altra cosa, qua in camera abbiamo uno piccolino 26 pollici, l'avevo già riparato, ok? Poi da poco mi ha detto Maria, lui non accende più il televisore, ma anche quando rimane in stand by, perché rimane in tensione, ti accende o non accenderà più, sono di nuovo riparato, e sta ancora andando. Ehi, a te lui che ti rispondo. K di Rogero e K di Rosmetro. Aia. Capito già, così è, comunque, già venne il televisore in negozio, quando si fa c'è un compagno monato, già bianco. No, io ne avevo portato uno dalla mia ex suocera in cantina, un Sony di quelli grandi, però a tubo cattolico, ma si vedeva da Dio, era quella serie di suoni particolari che si vedevano ben bene. Triato, una cosa del genere si chiamava. Mio socio mi dice, ma se per quando è che te lo porti via già, che mi occupa spazio con la cosa, e lo lasci lì, cosa non gli dà fastidio, che ne ha di spazio. Adesso è lì fermo, devo andare a prendermelo questo televisore, perché l'ho detto anche a mio cognato e mi serviva. Però è un bel grande per la cucina, capite? Di quelli che hanno la parte di dietro un bel lunga. Già, mamma ce l'ha 32 anni a tubo cattolico, a colori, capito? A colori, ed è enorme, è un 50 pollici, enorme, che praticamente ce l'ha all'angolo della sala con il mobile, è un mobile a televisore, enorme, con le casse di fiamma, tu devi vedere come si sente questo televisore, come si vede. E poi ne altre due, no, di ultima generazione, ma Maghisio, guai a tu capire, a me piaceva moltissimo a mettere una salone all'angolo, no? Perché c'ha le casse, c'ha anche, no? Cioè è tutto un compatto, quindi si dice, un impianto TV, ma una cosa spettacolare. L'aveva comprato a Porto Torres da, ma la prima che è nata, CM Elettronica, che come si chiama? Non era neanche in via Antonelli, era a San Gavino, se ti ricordi, quando ha aperto, l'ha comparata in Chile, via Bagaddo, mi pare 1.200.000 lire. Sì, avevo comprato anche un televisore lì, quelli portatili che avevano la radio, televisorino piccolino per camera, che me lo portavo in macchina perché qualcuno si voleva vedere il Beautiful, se no non escia, allora ho portato il televisorino, lo attaccavo in macchina. E niente, l'avevo comprato lì, sì, me lo ricordo, poi si era incendiato con le cose, ti ricordi, l'avevo aspetto Carlino lì in città. Solo lì si è incendiato, anche via Antonelli no, e via Follanini no, ma vabbè, già lo sappiamo. Comunque ti posso dire che, come ha detto Luca, è guai, mamma, quando sono in sala, stanno sempre con quella accesa 24 ore su 24, gatto, non si è mai fasciato, mai una riparazione ha avuto. Capito? È così, TV, e quello lì è un Sony, è un impianto Sony compatto, casse, TV, sotto c'ha il videoregistratore di quelli vecchi, ma ti dico che è un mal ragione che non ve ne vede a dirlo, però è molto bello da vedere, grigio, molto bello, è tipo il MIFAR che c'ho io qua, parete, però quello lì è un Sony. E quello che c'avevo io, c'ha le casse stereo, se tu sentivi la musica si sentiva perfettamente, proprio limpida, capito? È come quella lì, c'è un audio da paura veramente, non te le comando che mi hanno cantato un braccio, per carità, enorme, però già funziona molto bene, capito? Sì, è vero, te raccomando, a me mi era uscita la parte di davanti e c'era spaccata, dove c'è proprio, è rimasto solo un sensore e basta, la parte di plastica che c'era davanti c'era rotta. E vabbè, comunque andava bene come televisore, e me l'ha fatto togliere Liliana perché dice che era troppo ingombrante in cucina, e l'abbiamo messo quello lì, capito? E vabbè, adesso quando voglio lo dico al Massimo, se vado me lo prendo, non è che c'ho problemi, è bello grande. E se sai dove metterlo, già va bene. No, io questo che ho a parete non si può metterlo praticamente a parete, dai. Invece gli ho tolto il piantone, gli ho fatto le staffettine dietro, ho messo i rampini al muro e l'ho attaccato al muro. Ed è favoloso, veramente, trovo tutto, c'è il decoder incorporato, è un, come si dice, un LED, qui ci ha detto, un LED, e funziona, fino a quando funziona lo tengo, quando non funziona più, ne lo voglio, con 150 euro, ne compro un altro, la 32, la 40 pollici, lo riprendo a parete. E anch'io ho fatto così, ho tolto il piantone, dietro c'aveva gli attacchi, però c'aveva proprio la staffa per quello. Toglievi il piantone, c'aveva i buchi, combaciavano con la staffa, anche, capito? Sì, sì, anche questo è così. E l'ho attaccato al muro anch'io, sala. E quello che ho io c'ha anche il 3D, ma il 3D non è che sia andato molto, non ne trovo più di film in 3D. Prima si trovavano anche da Media World, adesso ci sono solo documentari e cartoni animati. Questo è un info per io diciamo che in camera da letto non ne ho mai messo, pur avendo la presa tutto quanto ci abbiamo messo il mobile davanti ed è un mobile enorme a due antescorrivoli di quelle grandi e quindi non posso stare a spostare il mobile per attaccare, poi se lo attacco qua in camera da letto cazzo mi trovo. Già lo farà il divano. No, ma io non mi guardo in camera da letto. È per mia moglie che a volte io mi guardo le partite nel salone, perché questo è più piccolo, ma le guardo di là. E allora lì ci mette per Maria De Filippi, Barbara D'Urso, quelle cose lì ce le guarda in camera da letto, capito? Se no se a volte me le guardo anche qua in stanza. Adesso che ho modificato, perché prima la TV ce l'avevo alle spalle, adesso invece sono dall'altra parte, ho fatto tutto lo spostamento, l'impianto, tutto dall'altra parte. Quindi il televisore sto parlando e vedo anche la TV, mentre prima ce l'avevo alle spalle. Ah ecco, vabbè già è comodo, solo che non fai una cosa nell'altra. No, è un volume basso, perché adesso non sto guardando, sto parlando e guardando cosa c'è. Quella che senti è quella del salone, la TV, se chiudo la porta non senti niente, capito? Però già vedo, già vedo, già vedo, poi c'ho le cuffie io, c'ho le cuffie lunghe, capito? Quelle cuffie lunghe, quelle senza fili, quindi mi metto le cuffie e sento anche la TV, ma a quel punto lì non lo faccio, preferisco guardare solo le figure, eh. Io ho con le Bluetooth le cuffie, e posso ascoltare tutto, musica, tutto gatto. Praticamente, visto dove si attacca, c'è l'attacco per attaccare il caricabatterie. Sono andato ad attaccare la caricabatterie e c'è entrato dentro. Ho dovuto smontare tutta la cuffia, ma già l'ho fatto, e l'ho risaldato. Adesso funziona bene. L'avevano saldato male, non ve la saldatura praticamente. Sì, vabbè, comunque, sì, anche la mia è quella brutta. Però la uso a volte poco. Magari quando sto facendo qualcosa, capito? Allora me le metto per ascoltare anche la radio, così, le partite. Mentre sto parlando, magari mi metto il coso, ascolto le partite e parlo anche in radio, così non si sente niente. E vabbè. Vabbè, altre tre ore e non si può più uscire. Quindi ci siamo affacciato al Poggiolo, mi si è transitata una macchina in via Milano, manco una dopo le 10. Ehi, ma non c'è traffico in città, nemmeno io sono andato a lavarmi la macchina, stasera per Danì da Città Mercato, alla Conad, e praticamente c'erano tutti i furgoni di mondo convenienza, ma com'è che andavano in quello aperto e io sono entrato subito nel box. Vabbè, me l'ho lavata, ma non ve la era tutto deserto, anche andando, di solito c'è sempre traffico e cose, niente da fare, non ve la risciuta. Sì, vabbè, ma prima alle 6 si è andato, alle 10, dalle 10 in poi non si può più uscire, dalle 10 alle 5 al mattino non si può uscire. Già lo so, almeno che abbi un motivo valido, tipo lavoro, tipo motivo urgente, eccetera, eccetera. Sì, lo so. Infatti adesso stasera alle 7 mi ordino la pizza. Alle 8:30, esco col cane, alle 8:30 vengo a casa, mangio e tira campana. Se c'è quella ti dico, anche noi, pizza, bene, è partita. Dopo, mi sono 7:15, ora 7:30 posto a Peppedo. Poi mi bongo il pigiama, esce la biglia in culo, lo lockdown, Locchetti e camicie di forza. Tanto io non lo lascio a parte. Io esco la mattina e buco. D'inverno, l'estate è un casino, però adesso d'inverno già piace stare a casa. Io Claudio, d'inverno non c'è nessun problema alle 10, perché io per le 9:05 sono già a casa, quindi non c'è nessun problema. L'estate anche io, cavolo, esco, vado fuori, vado al ghetto, vado in giro, faccio, però se non si può fare non si va, dove devi fare? È un casino, è casino. Io domani devo accompagnare una persona, infatti gliel'ho detto prima dell'orario, perché devo farmi il conto che devo arrivare. No, andiamo prima, perché secondo che stai ritornando a casa ti fermano, un casino. Tu fai il calcolo che alle 10 devi essere dentro casa tua. Se ti trovano per strada alle 10, se non hai la motivazione valida, sono 400 euro, da 400 a 1000 euro di multa. Ma io esco in cortile, se torno a tardi esco nel cortile, vado nel cortile e ho fatto il cortile a te. No, lascia perdere, col cane ci può uscire, non hai uscito. Col cane puoi uscire anche dopo le 10, non ti preoccupare, come l'altra volta. Eravamo in lockdown e potevamo uscire solo col cane, infatti tutti ci hanno comprato rugani. Allora poi finito il lockdown l'hanno dato a ruganire, animali che non sono altri, cazzo. Gianni, col cane puoi uscire, ok? Tranquillo. Mascherina, guinzaglio, 200 metri nell'arco di casa tua, puoi uscire, ma non senza il cane per i cazzi tuoi. No, ma hanno detto neanche con gli animali, così hanno detto, quando l'ho sentito io, almeno che abbiano cambiato adesso. Nuovo di PCM, vai tranquillo, c'ho il cane, quindi già lo so, io non ho problemi perché mi Filippo esce la mattina alle 9 e poi a volte lo porto all'1, all'1:30, alle 2, così se vedo che vuole uscire a fare la pipì, poi esce alle 7:30, 8:15 e domani mangiano di nuovo, quindi non ne ho problemi. Però se dovesse capitare che il cane necessita di uscire, vai tranquillo che non succede niente. Nuovo di PCM, sono usciti anche i cani. Ah ecco, questo che non l'avevo sentito. Vabbè, comunque, non sarà quello, perché magari domani rientro un po' più tardi, magari, e se proprio va male lo porto in cortile, la stessa cosa. Vabbè, ma stai attento che non ti puoi spostare fuori del comune di residenza. Come non mi posso spostare? Chi l'ha detto? No, con quello, il PCM che hanno inserito è quello, cioè se tu esci fuori da Sassari devi avere una motivazione valida per uscire fuori da Sassari. Ma sei sicuro? Perché domani devo andare al ghetto? Già, ci sarà una motivazione per andare al ghetto. È nuovo il PCM, cazzo, non l'hai sentito? Non si può uscire fuori dal comune di residenza. Dopo le 10? No, scusa, sto sbagliando, tra regioni. Comune di residenza ancora sì. Cazzo, se no... vabbè, dai. Sicuro, perché non è che mi voglio mettere a multe di 400 euro, allucinante. Domani devo portare una persona al ghetto, quindi non lo so. Non so se posso andarci, se non ci posso andare non vado. No, guarda, mia figlia lo conosce a memoria perché ha ricevuto la circolare al bar, quindi non ce n'è problema. Dopo le 22 tu non ti puoi spostare dal tuo comune di residenza se non con un'autocertificazione valida, ok? Dopo le 6, dalle 6 alle 10:15 ti puoi spostare, però stai attento perché non è ancora molto chiara da comune a comune che cosa, capito? Non è molto chiara. Quindi stai attento, informati bene, magari fai una telefonata al comando dei vigili, non lo so già, non ti voglio dire balle, da regione a regione no, da comune a comune dopo le 10 no, dopo le 22, dalle 6 alle 22 non lo so che cosa hanno inserito, se ci vuole l'autocertificazione per spostarsi. Non lo so, informati bene. No, dammi un attimo di tempo che telefono per la prima. Via, va bene, io sono qua. Risulta ancora occupato. Un casino, è un bel casino. Antonietto, ci sei? Antonio Bumbulino? Sono qua, già. Mi sono spostato, sono a bere un attimo. Ma è già, ordinaterai questa pizza. A pizza con le noci, a pizza con le noci, a pizza con le noci, quattro brucci. Gattarella, gattarella. A me, ma chi sta dentro la piazzata la mette a franco? Vai a salire la tenda. Ah, bella. Non mi ha sentito, domani, passo domani, Se non fa vedi come faccio a sentirti, cosa hai imbagliato il microfono? No, non ho detto lui il microfono. No, ti ho sentito, non ho visto il segnale. Ah, domani la piazzata, e tutto ci avete questa volta, sì? Ah, beh, certo, Castello Chimico ha messo, capi? Ricordatevi che va messo in due volte, se no è un casino. In due volte? Ehi, prima di far uscire la resina un pochino, e poi il prodotto. Ah, sì. Perché se fai uscire solo la resina, non fai uscire il prodotto, l'induritore è attacca al culo di lavoro. Mia grazie di PMR, chi sei, bubu. Ehi, guarda, io c'ho il volume basso, quindi per non dire che è quasi spento. A me, quando c'è molto chiasso, va a vedere tutti in pari, tutti a brutto. Poco mi interessa, stavo per non mettermi. L'ho riattaccato giusto per quando capita, magari fare due prove o delle cose, però ho messo la roba essenziale, proprio, mi ha divulgato tutto. Ehi, c'è che poi di alude infatti. Cosa vuoi che non stiamo andando, ci possiamo trasare un naso, aspetta, che la prendo un fazzolettino. Già sono qua. Casino, è un casino, ci ho messo alimentatore, come si sta viaggiando. Alternata, già non è ovvero qua. No, non è alternata. Io andavo. Cazzo, io che abbiamo strada non ci abbiamo sentato c'era un naso. Mamma mia. Allora, 1 e 2. Hai capito quello che stavamo trattando? Ah, ecco, e vabbè, vediamo. Lascialo qua, lascialo qua, c'è problema. A proposito, adesso vale le mail, ma è mail un attimino, vediamo un po'. Da dove stavamo traslando, Claudio? Cosa? Da dove stavamo traslando? Da qua! Qua! Cosa? Il PMR? Allora, sempre lo fanno. Anche l'altro giorno te l'hanno fatto, lo sai, te lo vedo. No, lo fanno solo a me, lo fanno a tutti. L'altro giorno stavamo traslando a Giulio. Ma non mi interessa a me, tanto prima o poi gli arbitri gheggiano gli imbecilli. E non si può fare, se li beccano uguali. Io l'ho detto poi, se continuano a fare gli stronzi. Il coso è che per colpa di qualcuno poi ci piangiamo tutti, capito? Se passi adesso il radio, assicuri che la PMR non omologate e ci mette tutti in galera, compreso me. Che gente. Tutti sono, gente che non ha capito niente, capito? Che alla radio solo per rompere le palle la gente, così come ieri, no? Ancora esistono le portanti, non si vergognano. Guarda, su Facebook la figlia di Luisito ha messo un link, ha scritto chi è che ha avuto il baracchino in 27 eccetera eccetera, e stanno uscendo fuori tutti quelli dei vecchi aerei, Canarino, insomma ce ne sono entrati tanti che modulavano tanto tempo fa, e c'è gente che dice che c'è ancora gli apparati che dovrebbe spolverarli, e ce li ha ancora. E qualcuno gliel'ha spolverato, ma per rompere le balle già, ma fatti dire, te l'avevo già detto, era così, e così siamo pochi, da voi si vuole volare un plicato. Mettelo per voletto, non c'è problema. Cosa fici? Non ce ne sia gente in ascolto di quelli che mettono la portante e che usano la radio solo per rompere palle. Un bel ce n'è. Lì già lo so. Capito. È entrato anche su Facebook Tore Biggio. Ha detto la sua anche Tore Biggio. E vabbè, comunque, quelli lì sono, parlano come se fossero cose di altri tempi, capito? Io gli ho scritto, ma io ci sono tuttora. Ma Tore Biggio era un caffeggato prima e continua a essere un caffeggato pure là. Non ne ha mai capito niente del radio, ha sempre usato la radio per fare casino, mai l'ho sentito fare un questo serio e per rompere palle a Falcone. Quindi che se ne sia buono su Facebook, io non ce l'ho Facebook, se l'avrei commentato io, ma più duffa vedi, da che pulpito c'è la predica, cazzo. Ma il Tore Biggio non è qua, era da Chena, non c'è più qua, Sassi. Vabbè, ma sempre commentando, sta. Quindi ha poco da commentare, perché lui era proprio quello che ha poche cose da dire, capito? Perché ha sempre usato la radio per rompere scatto alla gente. Italiano ha pliato già fa bocca e allora si è caimato. Io una volta una persona l'ha perseguitato e si è uscito nel curvone in via di Sicilia, quello che c'è per andare in via di Sicilia, quel curvone che c'è dove c'è il bar, si è uscito in Tibia. Ho detto che io con Marco 131 già è vivo e vegeto, vai a chiederglielo, se non me lo buca la mano c'è il bindeggio. C'avevo 27 anni. Raggio Bicicchito, io Raggio Bicicchito, capito? Raggio Bicicchito c'è stato durante la macchina, ero io Antonio Ara e Marco 131 e Luigi, Gigi, pompiere. Se non me lo piglia c'è il bindeggio, ma cosa deve parlare? Ma che sia zitto. Vabbè. Poi c'erano Aschi, Acchi, Achela e Acchi, te li ricordi? Un sacco, già io sono arrivato nell'85, sasse, 84, ma prima mi trovavo dal 75 sino all'83, 82, io mi trovavo da Porto Torres, hai capito? Sasse, sono arrivato nell'85, 85, perché abitavo via Montegrappa, a Baracchino, e abitavo a casa dei miei suoci io. Poi quando ho finito qua mi sono sposato e trasferito, capito? Ehi, aspetta che ritrovo la pizzeria, che era sempre occupata. Ehi, sono ritornato. Bentornato. Guarda, io quelli che sono sempre puntuali, sempre puntuali con le pizze, sempre puntualissimi da Obelix. Hanno una puntualità portandosi le pizze, che è una cosa micidiale, ma non ho mai riscontrato problemi. Gli arruciari che si occupavano i denti. Sì, vabbè, io ho la pizzeria qua nella piazzetta Loggiano e sono abbastanza puntuale. Oppure quella di via Lumessola. Ah, sì, sì. Vabbè, io chiamo loro perché ci ho vicino. Ma anche latte dolce chiamavo loro sempre. Perché gli altri è un casino, era, cioè. Stava arrivati la pizza, 2 ore, 1 ora, 1 ora. Ah, sì, grande. Allora chiamo sempre a loro. Loro sono puntualissimi. Ehi, vabbè. Ehi, sai cos'è, Antò, che a volte c'hanno molte consegne e quindi tardano per quello. Però se tardano a me mi avvisano sempre. Lo so. Un bel di voci. Di voi che però pigliare magari, invece ci servono 2 persone, ne prendono una solo, invece loro consegnano in 4 e quindi derubano un bel. Sto sempre andando a manetta, capito? È difficilmente che te la portino in ritardo. È per questo motivo che loro sono puntualissimi. Sono in 3 o 4 mi pare consegnando. E anche di Loggiano mi sembra che siano in 2 o 3, adesso non mi ricordo, mentre in quella di Lunesole lo stesso sono in 4, perché c'hanno le zone verso il monte e verso questa parte, capito? E vabbè, lavoraccio mio Antù, mamma mia, un lavoraccio quello è, cazzo. Bagazza, chi l'ha fatto? Io chiamandoti e non ti sentivo. Ok. Capo, adesso gli ho messo il lock, mi si è spostato il canale. Locked up. Ehi, ehi, aspetta un secondo, mi stanno chiamando mia moglie. Oh, papà, intendi, ne rugano il visino. Avrà giù bocciò il lock. Va giù bocciò, la massa che tieni in varia. 16, 11, 11. Luca, tu hai detto da Obedix, sì lo so che è, però con le frutti di mare come piace a me la fanno col sugo, a me non mi piace così. Come la fa? Bah. Vabbè, io mangio tutte altre pizze. E come la mangi tu? Oh, gorgonzola, quattro formaggi, o tonno e cipolle che piace anche a te, o qualche volta anche... come si dice, la mangio con prosciutto e funghi e tutti questi gusti. Se ti capita di andare a Porto Torres a San Gavino, prova la spadara, col pesce spada. Ah, già sta che è culo. E boh che buona, a fumicato, c'è poco buono. Oh, no. A me il pesce non è che mi piace assai, no? Anche a me non è che mi piace assai, a noi piace più la Garri, però è buona, quella lì è buona, quando merita, merita, tanto merita. Lo so. Hai voluto fogare tu di bista i nocchi, e mi tricotto. Ti siamo buffi i nocchi, e già fa bene, dai, stazionario. No, visto l'avevi quel video della mascherina che si apre? Via, che mangia? Sì, allucinante, cosa già vi intendo? Vabbè, tutte le inventano. Tu, da quando mi ha giubilato, chissà casa, mi stanno arrivando offerte di casse, di induzze, di più, ma mille tipi, da 2000 watt, da 3000, da tutti quanti i tipi di casse. Vabbè, è normale, succede, perché hai acquistato quella e quindi te le mandano automaticamente. Come io ho visto tanti altri articoli, te li mandano. Ma la KBG da 2000 fatti chissà cosa, Catalogna giù 2000. Ma poi un bel forte è quella che c'ho io, figurati, 300 watt, quella che c'ho io è un bel forte. Ma la manetta non la puoi mettere, se no diciamo le carabinieri. La manetta è un bel forte, si sente sempre perfettamente, non distorce nulla, è anche a manetta, però ti assolda. Allora, tu mi dici chi ci so, ma è sempre così, l'ho usata a me. L'ho usata quella cosa lì, io. Ma è una sala già si sente, ma non è che sia tutto ghiaccio grande, cosa. Prova a venire il pianto mio a vedere si pompa. Allora si drema tutto quanto, si drema. Cazzo, Marta, la saliva saliva di traverso. Succede. E oggi ha giocato un poco di vita, ma non fa salire tanto qua, perché sennò mi suona il campanello quello là che gli dice che li sto rimbombando la casa. E molti eravate? In 3 o 4. In 4 eravamo. E vabbè. Pochi ma buoni, dai. E poi ho dato il pezzo di torta a tutti, eccetera, eccetera. Una volta ad un pezzaretto, cazzo che tu mangiani. E tu l'hai fatta la torta? No, l'hai giubilata a Secchi, un artista da latte dolce, quello che c'è sotto Lucca, in via Bottego. Ma è veramente bravo sulle torte, la verità. Il più bravo a Sassari, vabbè, Secchi, se è lo stesso che c'era andando in piazza Castello, sono bravissimo. Ma dico che sono bravissimo, è bravissimo, mi ha fatto una bellissima torta, ma bella per me. Comunque Murittu a Sassari è uno dei migliori che c'è, dai. Secchi è più bravo, Secchi, da Secchi hanno imparato tutti i pasticcini che ci sono a Sassari, hanno imparato da loro. Ma Murittu e Pugioni sono i più anziani. Vabbè, Murittu è morto, no, Pugioni è ancora vivo, ma c'è il figlio. Io ho fatto la torta per il compleanno di mia moglie, lui, da quello che è morto, era un artista, faceva, ha fatto la chiesa di San Carlo di cioccolato, ma ha fatta bene a lui, sembrava la chiesa vera. Tutto ha fatto il cioccolato, in crema, tutto, ma un bel bella. Ha fatto facce di politici. Perché non è solo a fare pasticcere, quelli sono anche artisti, che si sanno disegnare, perché se no non riuscirebbero le torte così belle. Pallora, è morito Pallora, è morito dopo che è andato in pensione Puglioni e è diventato il presidente dei pasticceri. Prima era Puglioni il presidente dei pasticceri, è stato Secchi, Puglioni e poi morito. È morito, se è morto non lo so chi è. Puglioni, ero Puglioni, padrone dei pasticceri. Che cosa? Ho venuto io Cervi, che c'ha la pasticceria, cioè, vengono le pasta anche in via Pascoli. E ce ne sono diversi muriti. Ah, lui è diventato il presidente dei pasticceri. Ma io so di sì che ero figlioro. Sono come il presidente dei malattieri e Cesaraccio a Sassari. Io so che il presidente dei pasticceri lui, è quello che c'è lì in via Nunzio Cervi. Era Calvino Murito allora era. E adesso ero figlioro. Ci sono i figli, dai. Sì, Calvino Murito, Pallora, sì, Anto, chiamate così, perché prima era Puglione, poi è diventato Calvino Murito, poi è morto, adesso sicuramente sarà il figlio. Quel Secchi che dici tu sotto casa di Luca Oggià, è il nipote di uno dei Secchi, capito? Però è un grandissimo pasticcere, è molto buona la pasticceria che fa, capito? Guardati la torta che mi ha fatto, è buona a muro. No, sulle torte è un artista, te l'ho mandata su WhatsApp. E cazzo, il barone non mi posso mandare.